E ben ritrovati su Pink Moon, quest'oggi con un altro ospite, sempre dal Museo dello Strumento Musicale di Reggio Calabria. Questo ospite si chiama Emilio. Buonasera. E niente, mi aiuterà, anzi, diciamo che lui sarà l'ospite, però farà anche il padrone di casa, perché ci siamo divisi la scaletta a metà dei pezzi, in da 4 secondi. Da buoni amici ci siamo divisi la scaletta. E quindi non ci metteremo a disquisire su date, su... ma solamente di album, cose del genere. Esatto. di attitudini acustiche principalmente. Esatto. Perché niente, il buon Emilio è un ottimo chitarrista acustico, lui non lo ammetterà mai. Non esageriamo. Però è un ottimo chitarrista acustico. E mi sembrava la persona più adatta per poter fare un percorso del genere, a me ovviamente molto molto caro. E abbiamo scelto un po' di artisti che rispecchiano questa attitudine. All'inizio abbiamo detto ma magari eliminiamo i pezzi un poco più comatosi, invece alla fine abbiamo capito che per forza di cose si arriva lì. Esatto, era meglio andare proprio all'essenza e quindi senza badare al glamour dei pezzi, ma solo all'attitudine, alla vera essenza. Quindi niente date, niente cazzate, solo musica acustica. E il sottofondo degnissimo è quello di John Fay, sul quale Emilio però può dire qualcosina magari in più di me. No, beh, John Fay, chitarrista misconosciuto, ma al quale vengono riconosciuti dei grossi meriti, in quanto è stato uno tra i primi a sperimentare con delle accordature alternative, e questo suo uso di queste accordature alternative, di questi suoni primordiali, ecco, il suo stile viene spesso definito chitarra primordiale. Sì, infatti sembra che suoni con chitarre, non lo so, prese dalla cantina. Sì, dalla cripta. Dalla cripta. Esatto, questo suo stile ha travalicato un po' gli argini del genere ed è arrivato poi anche ad artisti contemporanei, anche in ambiti non propriamente acustici. Comunque, ecco, viene riconosciuto a John Fay questo merito. E quindi sarà il sottofondo degno di questa avventura acustica. E il primo pezzo che ha scelto Emilio, sì, quanto impronunciabile come quasi tutti i pezzi che abbiamo scelto. Sì, un certo Kaukonen. Penso finlandese, suppongo. Suppongo anch'io, facciamo e supponiamo entrambi, perché non lo so, credo. Comunque, beh, sì, Jorma Kaukonen con il brano Genesis. A dopo. About to fall, I love you dearer than them all, them all. So let me stay with you. Thank you. walked into the day. Sky's blue had turned to gray. I might have not been clear to say I never looked away. I never looked away. And though I'm feeling you inside, my life is rolling with the tide. I'd like to see it be an open ride along with you, going along with you. Can't stay within a vault to dwell, and living turns into a lender's well. So let me come with you, and let me come with you. And when we came out into view, there I found myself with you. When breathing felt like something new, new, along with you, going along with you. Genesis, quindi, dall'album Qua di Jorma Kaukonen del 74, se non sbaglio, l'unica data che daremo questa sera, perché è quasi, quasi certa, per evitare brutte figure. E anche perché a me è venuto in mente subito un pivello di nome Bob Dylan, e non lo so, come quando, non lo so, quando scriveva canzoni per qualche ragazza dopo una dose di, non lo so, acido letale. E quindi a me ha ricordato molto quell'ambito, ecco, quell'attitudine. E se del 74, diciamo, quelli erano gli anni in cui forse Dylan aveva dato sfoggio anche di capacità non solite, non comuni forse all'inizio, per tutta la sua carriera. Però vabbè, forse non no, per me forse non addentrarsi oltre su questo. Si rischia di... Infatti, anzi, ho scomodato un paragone scomodo, però niente, era quello che mi era venuto in mente principalmente. Qui abbiamo una compagnia di oggetti volanti non meglio identificati. Esatto. Zanzare, vabbè. Elicotteri volanti. Se doveste sentire ogni tanto qualche battito qualche di cosa mani, della ecco. Serie... Esatto, uno di questi, una zanzara in meno, purtroppo ci dispiace, ce ne doliamo, però è necessario per la nostra sopravvivenza. Altrimenti vincono loro e non possiamo andare avanti nella trasmissione. E il secondo pezzo è a firma 16 Horsepower. Sì. Hatterite Mile. Ecco, meno male l'hai detto tu. Ammazza che pronuncia. Niente, che tipo, che sonorità, che sonorità e che... Senza magari scomodare nessuno. No, sonorità infatti, anche queste molto... che definirei molto primitive anche queste, quasi ancestrali definirei. Uso di strumenti a corda, anche qui ovviamente, chitarra acustica e banjo. Quindi strumenti legati alla tradizione folk del sud degli Stati Uniti. non a caso, sì, infatti il cantante, il frontman dei 16 Horsepower, Eugene Edwards, viene appunto dagli stati del sud, è cresciuto appunto in questo ambiente. Lo possiamo trovare seduto in sì, veranda che sotto il portico cerca di beccare non accanto alla bottiglia di Jack, cerca di centrare la botte ecco, con i tappi allora lui è 16 Horsepower, At the Right Mile il brano. A dopo. From here, walking, dreams awake, I think not, I think not. The sky comes king, blown in every direction and of no country. I am strong. It is no mystery, I know my way from here. Iron sharpens iron, crooked wooden and peacock black. I have your feathers slung across my back. I'm not the only one to help you down the hill. My blue knuckles do as they will. No mystery, I know my way from here. It is no mystery, I know my way from here. One is precious as the other, they go with me. Today I am not a false conscience, a tyrant. Angels line my pockets, dear. I walk a hundred miles. Look at me this once, put an eye to my step. Looking for it's only misery, it's only ankle deep. It is no mystery, I know my way from here. ed erano i 16 Horsepower. E un sound veramente apocalittico, hai ragione. Sì. E del 95 più o meno. Sì, ecco, adesso non ricordo esattamente la data dell'album, ma sì, è un gruppo che ha avuto una vita piuttosto breve, dalla metà degli anni 90 ai primi anni 2000. Poi si sono sciolti e si è ripresentato appunto il frontman Eugene Edwards sotto forma di Woven End, con questo nuovo gruppo che mantiene comunque le sonorità del precedente progetto 16 Horsepower. E il prossimo sì. I prossimi artisti sono i Songs Ohio. Dovrebbero sì. Chiamarsi così perché dovrebbe essere una storpiatura di Ohio, sarebbe il loro stato di provenienza. Sì, in realtà sì, sì. E il pezzo è Coxcomb Red, sì. Due parole su Songs Ohio, Ohio che dir si voglia. Fanno capo a un unico personaggio che risponde al nome di Jason Molina, con un passato da batterista in un gruppo metal. Iniziato poi a suonare la chitarra e ha appunto partorito questo progetto che adesso andrete a sentire, quindi forse è meglio, piuttosto che spiegarlo a parole, farvi ascoltare direttamente le note. Songs Ohio con Coxcomb Red. A dopo. The fire on your breath, and I want it in your storm so bad I could taste the lightning on your breath. I watched you hold the sun in your arms while he bled to death. He grew so world is so Tiny Songs Ohio, due parole su un accostamento, un altro sì. accostamento molto pesante, diciamo, pesante. Sì, qualcosa che ci è venuto in mente mentre ascoltavamo il brano con voi, appunto. Siamo passati dalla chitarra acustica all'elettrica, anche se in un contesto molto pacato, e dei timbri vocali che ricordano un po' quelli di Neil Young. Infatti si parlava qui con Michelangelo appunto dell'altro progetto di Jason Molina, che è Magnolia Electrico, dove suona delle canzoni un po' più elettriche con un timbro che ricorda molto da vicino lo stile appunto del buon vecchio Neil Young. Abbiamo ripescato una colonna sonora a firma Neil Young, quella di Dead Man, il film di Jarmusch. Se non l'avete mai sentito parlare, procuratelo. Ve lo consigliamo un attimino. E, vabbè, il prossimo artista è qualcosa di... non lo so. Cioè, non... qualcosa di non lo so potrebbe rendere l'idea. Nel senso che si chiama Elliott Smith ed è, credo, uno degli artisti che forse fra pochi ha ereditato l'attitudine di un mostro sacro quale Nick Drake. Non solo nel songwriting, ma anche nella riconoscibilità del timbro vocale principalmente. Cioè, la prima volta che si ascolta la voce di Drake, ad esempio, ora non me lo ricordo più, però deve essere successo qualcosa di strano quando l'ho ascoltata. E la stessa cosa accade quando si ascolta per la prima volta il timbro di Elliott Smith, un artista che però ovviamente era imbevuto assai del periodo dei primi anni 90, quindi del grunge e di tutta quella, tra virgolette, negatività che poi l'ha portato a sfoderare dei pezzi e delle composizioni incredibili. Sì, purtroppo in comune con Drake la nota dolente, c'è la fine. Possiamo la fine, esatto, purtroppo. Però sai, Michelangelo, non è che l'hai dimenticato quello che hai provato quando hai sentito la prima volta la voce di Nick Drake, è che probabilmente l'hai riposto in qualche angolo di quelli dove vai a cercare molto. Dove vai a cercare solo in determinati momenti. Ti lascio il microfono. Ok, questo è Elliott Smith e il pezzo è Between the Bars. Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say. I'll make you okay and drive them away. The images stuck in your head. People you've been before that you don't want around anymore. That push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still. Drink up, baby, look at the stars, I'll kiss you again, between the bars where I'm seeing you there, with your hands in the air, waiting to finally be caught. Drink up one more time and I'll make you mine, keep you. Separate. Ed era Elliot Smith con Between the Bars, il prossimo, anzi è un duo. Grandissimo Elliot Smith, veramente, no, sul serio, ne parlavamo prima ascoltando. Pochi artisti lasciano questo genere di vuoti e quindi è sempre bello riascoltarli quando è possibile. Sì, rinotavamo delle influenze beatlesiane. Assolutamente, sì. Sì, una delle sue cover più famose è proprio Because, pezzo lisergicissimo dei Beatles, rifatta sempre in stile acustico. Il prossimo è un duo del quale io conosco solo un artista. Beh, dei come, due. Come non potresti, ma anch'io in realtà conosco. Guarda, se ti dico che conosco quello meno famoso, ah, sì. No, non è così. No, vabbè, no, ma mi avrebbe stupito, mi avrebbe sorpreso, ne sarei stato felice, per carità. No, è Bonnie Prince Billy, quello tra virgolette famoso. Sì, Bonnie Prince Billy, appunto, è Matt Sweeney con questo album Super Wolf. E il brano che ascoltiamo è I Gave You. È un brano con un testo assolutamente da leggere. Se ne avete voglia, potrete cercarlo e potrete constatare quantomeno, ecco, anche come il messaggio tramite le parole arrivi a volte accompagnato dalla musica talmente in profondità da non potersene poi più staccare, da non potersi più liberare da certe sensazioni che il brano ti appiccica addosso. Niente altro da dire. Ecco, anche se siete fanatici di math rock e basta, dove non c'è alcun tipo di testo, andatevelo a spulciare lo stesso. Magari vi può interessare, si sa mai. E questo è I Gave You. I gave you child and you didn't want it. That's the most that I have to give. I gave you house and you didn't haunt it. Now where am I supposed to live? I gave you tree and you did not embrace it. I gave you a nightmare and you didn't chase it. I'd give you a dream and you'd only wake from it. Now I'll never go to sleep again. I'd give you a treasure and you'd only take from it. Look at the hole where jewelry had been. Baby, oh baby, why must you escape from it? This love that we once called a friend. Of me to give, and you have vanished into the air in which I must live. Thank you. E bentornati, siamo sempre dal Museo dello Strumento Musicale di Reggio Calabria per questa nuova stagione di Pink Moon, puntata principalmente acustica, su transizione di fase, su www.transizionedifase.org. D'altronde, se capitate su questo contenuto, tra virgolette, in qualche modo dovete sapere cos'è. Certo. Anche perché ancora non si è data all'etere, e non è una frase da fattone. Non si è data ancora all'etere. E niente, il prossimo gruppo. Allora, principalmente stiamo adottando diverse attitudini. Stiamo ascoltando diverse attitudini acustiche. Ossia, il prossimo brano è di un gruppo che principalmente si inserisce in uno forse dei movimenti rock e musicali che più personalmente mi hanno influenzato. Ed è quella cosa che non vorrà dire niente, però può essere messa nel calderone del nome post rock. Una delle scene musicali che ha avuto forse più costole e più derivazioni diverse, più prolifiche. Il fatto che si possano considerare post rock i Low e i Don Caballero insieme mi fa molto pensare, la dice lunga sulla validità delle etichette in certi esatto. casi. Però esatto. A noi piace la musica, quindi sì, questa è principalmente un lato del post rock molto, ecco, ambientale e d'atmosfera. E la cosa micidiale di questo complesso, che si chiama Low, oltre al nome che penso una specie di manifesto programmatico, è il fatto che riescano a arrivare ad una tale scarnificazione della proposta e arrivare ad un'attitudine così, come posso dire, così minimale. Con strumenti tradizionalissimi, anzi strumenti che classici. Principalmente sono propri di una rock band che può spaccare qualsiasi cosa, della serie basso, batteria, chitarra e voce. Non lo so, basso, chitarra, batteria e voce sono gli Shellac, per dire, sempre parlando di post rock. Invece loro con questi tre elementi riescono a costruire un sound incredibile. E un album di culto. Loro sono i Low e questa canzone si chiama Words. ed erano i Low con Words. Tra l'altro i Low potrete, vabbè, quando andranno in onda queste puntate magari ci sarà già, anzi sarà già stato, si sarà già svolto il Primavera Sound Festival a Barcellona. Però se non avete niente da fare, andate a guardarvi la line up di questo festival, perché oltre ai Low e a altri gruppi che non sto qui a dirvi, magari, vabbè, gli Sturzende, Neubauten, riguardando la scaletta si ha l'impressione che ci siano solamente gruppi seminali della serie, non come diceva Emilio prima, gruppi che sono arrivati quando la strada era già aperta magari. ma gruppi seminali. Quindi se non avete niente da fare, magari andate a ripescare. Se questa puntata andrà prima. E, niente, il prossimo artista è un altro artista recente, che ha dato vita anch'esso a una nuova scena che io non saprei come definire, anche se si sono spese molte parole su questa nuova scena acustica. E non la etichetto, vabbè, lui si chiama Devendra Banhart, sembra uscito dal remake dei Pirati dei Caraibi. Sì, infatti, anche perché è un personaggio che fa storia a sé, sì. Quindi al di là di tutto rimane comunque unico nel suo essere particolare. E attitudine molto, se non primordiale, ma quasi come se suonasse su un'isola deserta, ecco, questo mi, cioè proprio da solo, però sempre preso a bene, questo sì. è la caratteristica, o quasi. E tu hai un aneddoto su Devendra Banhart? Uno dei tanti che circolano, è però uno dei pochi che io ricordo, perché sembra effettivamente essere un personaggio ammantato di una certa aura quasi leggendaria. Comunque quel che si dice è che lui stesse suonando in un locale, e in questo locale fosse presente un cantante di una nota band heavy metal degli anni 80, non diciamo quale perché magari può sembrare comunque bene. Anzi, lo dico io, Ivan Allen, come direbbero gli Offlag. Ecco, però più che altro non vorrei ricordare male io, comunque mi pare di ricordare appunto che fosse presente questo cantante di Ivan Allen, e mentre il buon Devendra era lì a suonare, questo personaggio si è permesso di andare a mettere una canzone dei Van Halen nel jukebox. Vi lascio immaginare come ha reagito Devendra Banhart, che era lì a esibirsi dal vivo. E, oltre a questo, insomma, un personaggio che telefona agli amici e registra le proprie canzoni nelle segreterie telefoniche degli amici per poi andarle a recuperare. Cazzo. Ecco, i momenti di ispirazione estemporanea, magari mentre si trova per strada. Ecco, quindi è un personaggio molto particolare. Lo ascoltiamo, Michelangelo? Lo ascoltiamo con Little Yellow Spider. A dopo. One, two, three, four. Laughing at the snow, maybe that spider knows something that I don't know, 'cause I'm goddamn cold. Little white monkey staring at the sand, well, maybe that monkey figured out something I couldn't understand, who knows. Upon a dancing crab and I stopped to watch it shake. I said, dance for me just one more time before you hibernate and you come out of crab cake. And hey there, little snapping turtle, snapping at a shell. Ah, there's mysteries inside, I know, but what they are, I just can't tell for sure. Baby crow, you're looking kinda mean. I think I oughta split before you start letting off your steam, for sure. And hey there, little sexy pig, you made it with a man, and now you've got a little kid with hooves instead of hands. And no, all of the animals, all the and hey there, little mockingbird, they sing about you in songs. Oh, where you been? Have you broke a wing? I haven't heard you in so long. And hey there, little albatross, swimming in the air. Ah, come on, you know I can't fly, and I think we really ought to play fair. And hey there, Mr. Happy Squid, you move so psychedelically, you hypnotize with your magic dance all the animals in the sea, for sure. Morning sun, what kind of creature are you? I can't stare, but I know you're there. Goddamn, how I wish I knew. And hey there, Mrs. Lovely Moon, you're lonely and you're blue. It's kind of strange the way you change, but then again, we all do too. Ed era Devendra Banhart. Cosa quello dire? Che, no, quello che ci è venuto in mente è che questa attitudine lo-fi è una, cioè, è molto chiara nel senso che anche nella produzione del pezzo, come dicevi tu, sì, si lascia tutto, sospiri, botte sulla chitarra, sì. È quasi zero sovraincisioni, proprio perché l'attitudine è quella di giocarsela su altro, sì, ecco. Sull'autenticità dell'esibizione, infatti non ne perde assolutamente, ecco, quello che va a scapito magari della pulizia sonora va a favore dell'autenticità del brano. E Il prossimo brano è di un gruppo che è una derivazione di un complesso, principalmente si può dire shoegaze, dai, diamo altre etichette. Sì, perché no? Sì, shoegaze erano gli slow dive. Anche perché ormai non lo utilizza più nessuno, esatto, questo termine, quindi ci possiamo è un appropriare. Complesso shoegaze che non siano i Jesus and Mary Chain e i My Bloody Valentine, lo ricordiamo, erano gli slow dive. Però non andremo ad ascoltare un pezzo degli slow dive, che tuttavia vi consigliamo. Passiamo a un pezzo di un progetto successivo, un progetto più intimista, anche se è difficile magari essere più intimisti di un progetto shoegaze, però senza dubbio dai tratti acustici e cantautoriali per certi versi. Sono i Muave 3, o Muave 3, come volete. Ed è il pezzo iniziale dell'album, che ora non ricordo come si chiami l'album, però se siete dei ragazzi volenterosi andate a cercarvelo. Il pezzo si chiama In Love With A View e ci risentiamo dopo. was built on thinking too long. Canadian winters at home with your sisters, the romance was hard to ignore. You were beautiful, I was happy to fall. I remember you searching, I thought you were searching. That's how I picked up the phone. Happy to hear you remembered the view. So glad to assume at the time it was clear. I thought at the time it was clear. So I stood at the station, the plan and a pocket of poems. Heroically tragic, bearded and blind with obsession. I'm a car without hope, too close to the ditch to go far. Showed you my field, I said this is my field, but you weren't impressed. You said, why are we here? Your motives are clear. In this room with a view, there's so much of you. Just fell apart. Sung by the sound of your voice, and I wish. wished I could show you the same. You're by the window and me feeling fine, and me just feeling fine. Yeah, me just feeling. Ed erano il Moave 3 e già pensavamo di mandare questa puntata ovviamente in autunno. Sì, ovviamente. Esempio di canzone perfetta, dicevamo prima con Michelangelo. E sia dal punto di vista del testo che uno, cioè forse, allora di questo gruppo principalmente ricordiamo questa canzone. Sia per testo e musica, ma anche per testo e musica, Prayer for the Paranoid, che se riuscite a trovare in versione acustica è anche meglio, visto l'attitudine. E niente, il pezzo conclusivo è di un artista che, anzi, sul quale ci troviamo molto d'accordo. Sì, e la cosa singolare è che si tratta di un artista non recente, ma recentissimo. Cioè, pieni anni 2000, forse il primo album è dei primi, forse del 2002-2003. E la cosa molto strana è che risulti interessante ben oltre la media degli ascolti. Il fatto che ovviamente come saturazione poi delle proposte di questo genere diciamo si è andato ridicendo tante cose già scritte. Invece quest'artista, che si chiama Micah P per, sta per, non si sa, non lo sappiamo, comunque Micah Hinson è un artista americano, tra l'altro giovanissimo infatti. Non si direbbe dalla voce, perché... No, infatti, è che lui ha condensato tutte le esperienze che una persona normale fa in una media di 70 anni di vita. Le ha condensate in 4 minuti leggendari. Sì. Le ha condensate, cioè ha fatto esperienze, appunto, dicevo, di una vita ben più lunga, tutte prima dei 20 anni. Quindi questo probabilmente l'ha portato anche a maturare questo songwriting, diciamo, questo modo di scrivere e questo modo anche di cantare e interpretare le proprie canzoni. E una cosa che volevo dire era sul timbro vocale, il fatto che oltre ad avere un timbro cavernoso oltremodo, ricorda un artista che io consiglio caldamente, anche Emilio, e si chiama Smog, nome d'arte Smog. E Bill Callahan per gli amici. Smog è un altro artista molto lo-fi, attitudine molto lo-fi, è molto su questo mood. Ecco, non abbiamo passato niente, però cogliamo l'occasione per li stai preparando, insomma. Esatto. Li stai preparando, diciamo che abbiamo costruito un quadretto abbastanza degno, credo, sia di questo pezzo che forse di un'attitudine che è principalmente, come abbiamo detto, autunnale. se non invernale, autunnale, credo, senza dubbio. Il pezzo di Micah Hinson è You Lost Sight of Me, ed è preso dal suo primo lavoro, mi sembra. Sai, questo non lo ricordo, devo essere sincero. Mi pare che sia del, allora, disco del 2010. Al volo, se ce la fa. Ah, non vorrei, recente. Non vorrei sbagliarmi, ma mi pare. Vabbè, comunque sti cazzi. Ok, infatti, l'abbiamo detto all'inizio, ci siamo scusati, esatto, abbondantemente. E niente, io ringrazio Emilio. Grazie Michelangelo, transizione di fase. Ovviamente questo è sempre Pink Moon su www.transizionedifase.org e noi siamo sempre dal Museo dello Strumento Musicale di Reggio Calabria e alla prossima. Sight on me whilst the wind did blow so horrid, as if I disappeared to thin breathless air drinking bitter sweet, and sometimes it seems that you lost sight. All your broken heart.